La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon martedì 16 di giugno, 16:32 primi, siamo in diretta dagli studi Radio 24 Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo della trasmissione, la versione di Oscar @radio24.it. Oggi torniamo, infatti, per questo scrivete, proponete temi e proponetevi come ospiti, torniamo con due ascoltatori, nella prima e nella seconda parte della trasmissione, che hanno una storia da raccontare, ed è una storia che fa riflettere in entrambi i casi, perché rivela, ohimè, aspetti che impattano la vita di milioni di italiani. E naturalmente io ringrazio gli ascoltatori che hanno la voglia e il coraggio di trasformare le loro vicende in spunti di riflessione. Lasciatemi dire che nell'arco della giornata, prima di presentarvi il primo ospite e farvi capire di che cosa parliamo, per darvi l'idea, comunque nella prima parte parliamo del salario di merito e di una promessa mancata da parte della politica. Nella seconda parte parliamo di una, ohimè, promessa mancata da parte del welfare nei confronti di chi ha bisogno. Questi saranno i due temi, ma lasciatemi dire tre cose sulla giornata. Oggi, naturalmente, solidarietà a ciascuno di voi che, come me, a milioni ha fatto l'F24. Mi è scappato da ridere perché mentre lo facevo dal computer in ufficio ci avevo aperta l'intervista del ministro dell'economia Carlo Padoan al Mattino, nel quale diceva la linea del governo è proseguire nel taglio delle tasse, e mi sono detto, ridendo, dando, ohimè, il send all'F24, che siccome quella linea non è mai cominciata, lo dicono le cifre ufficiali del governo, quindi non cominciate, la solita polemica sugli 80 euro al netto, la pressione fiscale lo sapete che non scende, siccome non è mai cominciata, l'espressione testuale del ministro, proseguire su quella linea significa appunto continuare a non perseguirla. Mi è venuto da ridere perché c'avevo esattamente il dito nel ottemperare il dovere fiscale mio, come di milioni di italiani. Oggi, ecco, oggi è un San Paganino, ma per lo Stato che incassa, per così dire. Seconda riflessione, la Grecia. Allora, io rimango sempre più senza parole nel vedere come i media italiani riservano oggi decine di pagine all'interpretazione delle dichiarazioni del Premier dopo le elezioni comunali e regionali. Si torna a Renzi 1, Renzi 1, Renzi 2, l'editoriale del direttore del Corriere della Sera, di Repubblica, tutti su questi temi, proprio decine di pagine dedicate a questo. Nel frattempo, la vicenda greca sta andando a una situazione di non ritorno. È vero che ci sono ancora dei giorni di fronte, ma di non ritorno, cioè stiamo tutti dando per scontato, nell'indifferenza generale, devo dire, che la Grecia esce, non si sa come, cioè non si sa quali saranno i termini contrattati di questa uscita per diminuire l'impatto sui greci, che già stanno in ginocchio, e su noi stessi. La cosa è delegata, per così dire, a decisioni tecniche. Non riesco a capire, cioè, per me questa è una rottura storica, il cui impatto avrebbe, per esempio, reso necessario per il governo sentire tutti i partiti italiani per vedere che cosa pensavano che bisognava dire in sede europea, sì, no, aiutarli, non aiutarli, come si procede all'uscita. Invece pare che la cosa sia nell'indifferenza generale. Io confronto i giornali tedeschi, quelli britannici mi stupisce meno, perché lì c'è il tema anche dell'uscita della Gran Bretagna, del referendum, mi stupisce meno. Ma per esempio in Danimarca, dove si vota tra due giorni, cioè questi sono tutti i temi sulle prime pagine dei giornali. Pensate che in Danimarca il presidente del Consiglio danese, altro che i rifugiati, ha proposto ufficialmente, due giorni prima di andare a votare, che anche i lavoratori degli altri paesi dell'Unione Europea, se vanno in Danimarca, non abbiano accesso al welfare danese, ma si portino dietro ciascuno il welfare del proprio paese di appartenenza. Ecco, noi di questa vicenda greca proprio come se non ce ne importa nulla. Sì, veramente singolare, io lo trovo. Scopriremo poi l'indomani, io spero ancora in un accordo, che quello che ci hanno raccontato, che noi siamo immuni da ogni problema, è una pietosa falsità, e questo lo sappiamo tutti che è così. Terza cosa, tanto voglio confermarvi questa impressione, che a fine mattinata, a ora di pranzo, il presidente del Consiglio greco è intervenuto al Parlamento greco e ha fatto un discorso impressionante, che veramente non lascia spazio più per ogni soluzione, perché ha detto testualmente che i creditori sono il Fondo Monetario dell'Unione Europea, siamo noi, come sapete, i creditori sono dei criminali, ha detto testualmente, ci vogliono asfissiare, ci vogliono strangolare. Queste sono le parole testuali che ha usato, più molte altre. Non lo so, è più importante sicuramente per la politica italiana immaginare Renzi 2 e Renzi 3, secondo me quello ha un impatto su tutti noi, su tutta l'Europa, la storia che abbiamo alle spalle e così via. Dico infine un'altra cosa, poi andiamo all'argomento del giorno, che credo di fronte a Mafia Capitale, e ve l'ho già detto, che un Presidente del Consiglio per responsabilità istituzionali di governo di fronte a una giunta, anche l'attuale, che non ha preso sul serio l'allarme che gli ispettori del MEF avevano fatto dicendo qui ci sono troppe gare affidate, troppi appalti affidati senza gare, di fronte a Mafia Capitale devono parlare i fatti, se per di più anche il segretario del PD, cioè deve decidere se dire si va a votare, si scioglie oppure no, piuttosto che esprimersi in questa maniera che a me ha fatto balzare sulla sedia dicendo Marino, fossi al tuo posto mi preoccuperei, che è un'espressione sulla bocca di un responsabile istituzionale, il massimo responsabile politico del paese, che io ho trovato molto singolare. Comunque questa è la mia opinione, io preferirei che ci fossero atti di governo invece che questo frasario un po' singolare. Secondo me molti nervi sono saltati con queste elezioni, non solo a Palazzo Chigi, è una questione di confusione generale. Fine delle mie tre osservazioni, e andiamo però al primo ospite. Il primo ospite è un imprenditore e ha appunto una storia da raccontarci. Marco Fiore, grazie di essere con noi, Marco. Buongiorno Oscar, grazie dell'invito. Allora, la sua impresa è attiva in che settore? Noi lavoriamo nel settore medicale, più precisamente i cosiddetti dispositivi medico-diagnostici in vitro, cioè quei prodotti che servono per eseguire le analisi mediche di laboratorio. Mediche di laboratorio. Ed è un'impresa che va in questi anni di crisi, come è andata? Bene, male, meglio, peggio? Ti rispondo così. In questo momento il mio database dice che la nostra quota export ad oggi, 16 giugno, è 86,14%. Del fatturato? Esatto. E quindi insomma dovreste essere di quelli che, grazie al traino della domanda estera, si è posta al riparo rispetto alla crisi della domanda interna, no? Diciamo che noi ce la caviamo piuttosto bene. Ve la cavate piuttosto bene. Quanti addetti? Noi siamo in tutto 13, me compreso. 13 addetti. E con un'occupazione fatta da... ci sono donne, ci sono... Diciamo che noi abbiamo un'occupazione per l'80% femminile, un'età media molto bassa, la scolarizzazione è molto elevata in quanto buona parte di nostri sono laureati, diversi con dottorato di ricerca. E nostra è un'azienda scientifica, tecnica, dove la ricerca e gli investimenti sono importantissimi per andare avanti. Allora, è un'azienda di prima generazione o è già la seconda generazione? Prima generazione, prima l'ho fondata generazione. Io quasi 25 anni fa. Quasi 25 anni fa. E, veniamo al punto, per così dire. Quest'anno hai avuto una pensata. Diciamo che dopo anni e anni di cinghia tirata, investimenti, noi solo nel 2007 abbiamo investito 1.700.000 euro per il nuovo stabilimento. Siamo riusciti lo scorso anno finalmente a cominciare a lavorare con i soldi, diciamo, nostri, non quelli delle banche. E allora, visto che avanzava qualcosa, permettimi il termine un po' così, un po' grossolano, ma rende l'idea, ho pensato è ora di condividere, cominciare a condividere con i miei ragazzi. Quindi ho istituito il premio di produttività, che è commisurato ai risultati di fatturato rispetto all'anno precedente. E confidavo anche molto nella detassazione, nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, che è stata applicata negli scorsi anni e tuttora sarebbe stata in vigore. Ricordiamo a chi è in ascolto che da 4 anni, in teoria dal 5 anni a dire la verità, 5 anni lo Stato, i governi susseguitisi hanno messo a disposizione una quota, quella del salario appunto di merito e produttività, con un incentivo di detassazione, e questo in coerenza a quello che si è sempre detto nel nostro paese, che ha una produttività declinante da metà degli anni 90 in termini comparati, dal 94-95 in termini comparati nelle graduatorie internazionali dei nostri paesi concorrenti, comunque in ambito OCSE, noi abbiamo una produttività che non regge il ritmo degli altri paesi, poi è diventata addirittura negativa nella crisi. Le ragioni di questo le approfondiremo tra giovedì e venerdì in una puntata dedicata appunto a questo grande problema, perché le ragioni per cui noi perdiamo produttività rispetto ai nostri partner non crediate che siano così scontate. Vedremo che ci sono diverse faccende da considerare per capire perché noi siamo così purtroppo arretrati. Abbiamo un gap accumulato veramente impressionante, perché conta sia il numero di addetti sia il numero, la quantità di valore dell'output e non solo di volume, conta la bassa redditività del capitale investito, conta il tipo di bassa patrimonializzazione delle imprese, ci sono molti fattori. Comunque, proprio per questo, per incentivare l'aumento di produttività e mettere più soldi in tasca ai lavoratori dipendenti, quindi detassandolo, in teoria c'è questo fondo, in pratica, che di anno in anno è devoluto esattamente a quel tipo di imprenditori che, come Marco, dicono applichiamo anche nella nostra azienda. I lavoratori erano stati informati, erano d'accordo, sì Marco? Sì, i lavoratori erano stati informati e noi a gennaio abbiamo già effettuato il calcolo e quindi eravamo pronti a pagare con le buste paga che sarebbero state liquidate il giorno 10 febbraio. E aspettavamo però la firma del DPCM relativo al rifinanziamento della legge per quest'anno. E aspettiamo febbraio, aspettiamo marzo, aspettiamo aprile. Io a un certo punto ho detto ai ragazzi, se li volete intanto li tasseremo normalmente, poi vediamo, passa ancora del tempo, arriva giugno e esce giusto il 24 lunedì la notizia che il Ministero delle Finanze, credo, ha detto non ci sono soldi e quindi, non rifinanzieremo quest'anno questa legge. Il governo ha usato la decenza prevista nella legge di stabilità inizialmente per la decontribuzione del salario di produttività per coprire altre voci e in parte anche l'estensione confermata del bonus 80 euro. Il risultato ovviamente è che le imprese che fidandosi della promessa della politica avevano intrapreso questa strada, ripeto, più soldi in tasca, meno tassati ai dipendenti in relazione ai risultati della stessa impresa, quindi due cose positive insieme, a questo punto, dopo averlo deciso e condiviso con i lavoratori, cosa fanno, Marco? Allora, io faccio una premessa, io sono fermamente convinto e tutti gli imprenditori sani sanno che i collaboratori, che io non amo chiamare dipendenti ma collaboratori, sono uno degli asset primari dell'azienda e non devi mai deluderli. Allora io cosa ho fatto? Ho detto ragazzi, voi dovete prendere questo X netto in base al calcolo del 10% e lo prenderete lo stesso. Il resto della tassazione se ne è fatta carico l'azienda. Cioè noi abbiamo dato mandato al nostro consulente paga di ricalcolare le buste paga in modo tale che il netto che prenderanno, hanno preso con la sia uguale come se ci fosse stata la parte decontribuita, esatto, dello Stato. E quelle alcune migliaia di euro che ci è costato in più se ne è fatta carico l'azienda, perché io mantengo sempre le mie promesse. Allora, chiunque ascolti si faccia le sue riflessioni, per così dire, perché Marco, io lo ringrazio perché porta questo esempio concreto, si chiama chema diagnostica l'azienda, e naturalmente io spero, ma ne sono ragionevolmente convinto, che i lavoratori, i 13 lavoratori della sua azienda abbiano toccato con mano che cosa vuol dire. Ma che cosa vuol dire che cosa? In definitiva uno Stato che non mantiene le sue promesse, anche quelle più virtuose, anche quelle che servono per dare crescita aggiuntiva, più reddito disponibile, ma come con la perdita dei consumi che abbiamo, per una volta che abbiamo una buona legge che serve a mettere insieme due obiettivi virtuosi in uno, che cosa si fa? Che si dice ai lavoratori e alle imprese, dai, mettetevi d'accordo, facciamolo, e poi si dice no, i soldi non ci sono, abbiamo cambiato idea. Ecco, l'esempio di Marco, che io ringrazio, è uno dei tanti esempi di come lo Stato, che ci chiede oggi indefettibilmente di non sgarrare al minuto secondo sui nostri pagamenti, ed è giusto così, Dall'altra parte, invece, si riserva tutte le eccezioni del caso per fare diversamente da come si era impegnato a fare nei confronti degli stessi soggetti a cui chiede i soldi, cioè i contribuenti, i lavoratori, chi non ha un lavoro, le imprese e così via. Fare crescere meno le imprese dopo aver promesso di contribuire ai salari dei loro dipendenti significa mettere le basi per avere meno occupati piuttosto che averne più in più, oppure avere più occupati con il Jobs Act e con la decontribuzione dei contratti a tempo determinato, ma comunque rinunciando a quelli che verrebbero in più dalla crescita del fatturato e dell'utile reinvestito, per il quale questa norma era stata finanziata per anni e questo governo l'ha definanziata. Viva le aziende che hanno del proprio per poter comunque dare in tasca ciò che avevano promesso ai lavoratori, ma non è questo il modo di comportarsi per uno Stato accettabile. Grazie Marco Fiori, torniamo tra un minuto con un'altra storia. Strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48 primi 20 secondi. Immaginavo che qualcuno avrebbe mandato sms dicendo della Grecia non me ne frega un beato piffero. Vi invito solo a riflettere che vorrei che poi non doveste cambiare idea tra qualche tempo, perché se riprende il ballo dei tassi di interesse, già oggi le previsioni del DEF sono fuori linea rispetto a quello che è successo negli ultimi due mesi, se quindi aumentano gli oneri da pagare sul debito pubblico, ci sono tanti buchi già da colmare e il governo sta aspettando la legge di stabilità per farlo, no la reverse charge e così via, è venuta l'Unione Europea e così via. Allora, se di fronte a tutto questo finisce poi che vi dicono che bisogna pagare ancora più tasse, allora poi non dite che della Grecia non ve ne siete occupati per tempo, perché forse avere dalla politica italiana, dalla maggioranza e dell'opposizione, un po' di idee chiare su qual era l'interesse nazionale nostro per evitare altri guai nostri e comunque per evitare di perdere anche 40 miliardi, perché questo è quello che i greci ci devono, sarebbe stato preferibile farlo per tempo, cioè prima, invece di concedere deleghe in bianco alla Merkel, come è paradossalmente avvenuto oggi, proprio da coloro che dicono che l'Europa deve cambiare, perché questa è la posizione ufficiale del governo, però la delega noi l'abbiamo data in bianco e a me questo, devo dire, non mi convince. Prima di non piacermi avrei voluto capire che cosa diavolo c'era scritto nella delega che ha dato il governo italiano alle trattative che non stiamo facendo noi. Allora, veniamo a un'altra storia dopo quella della decontribuzione avvenuta da parte dello Stato al fondo che serviva a finanziare la detassazione del salario di merito. Avete sentito la storia di un'impresa che dopo aver convenuto con i lavoratori tutti insieme più soldi, alla fine l'impresa ce li mette di suo e ovviamente pagherà di più, ma di fronte al fatto che non si possono prendere in giro i lavoratori a quel punto è lo Stato che è venuto meno al suo impegno. Veniamo a un'altra storia, un'ascoltatrice che si chiama Cosetta, Ferrari, e ci ha scritto della vicenda che interessa lei e suo padre. È vero Cosetta, qual è la storia? Ma sì, Oscar, intanto buon pomeriggio. Ma io sì, ho scritto perché, diciamo, sono figlia unica, lavoratrice autonoma, di un papà in fase terminale. Trovandomi, diciamo, sola a dover gestire questa situazione, ho dovuto attivarmi chiaramente per assistere il mio papà fino alla fine, diciamo, con dignità e rispetto. E conseguentemente a questo ragionamento ho assunto una badante per la quale pago un regolare stipendio, pago i contributi. Mi è stato detto che potevo fare una domanda di accompagnamento per il mio papà per poter avere, diciamo, supporto. A questi costi comunque elevati. Certo. Ho fatto questo, non dico il calvario, diciamo, per arrivare a quel punto, carte, cartine, chiamate, telefonate, insomma c'è quello che, diciamo, è abbastanza usuale in Italia. Benissimo, arrivati a quel punto, l'INPS mi manda, direi, circa 3 raccomandate con ricevuta di ritorno, confermandomi di aver concesso questo accompagnamento a mio papà a supporto di questa situazione. Io ovviamente pensavo di aver raggiunto, senza, cioè voglio dire, con un'enorme fatica, diciamo, questo tra virgolette traguardo. Dopodiché, vedendo che questi soldi, diciamo, mero danaro non arrivava, ho chiesto e mi è stato detto che sì, l'INPS mi ha confermato, diciamo, questo accompagnamento al mio papà, che, al quale purtroppo rimane poco da vivere, ma che l'INPS erogherà, diciamo, questo accompagnamento fra 6-8 mesi. A questo punto io, cioè voglio dire, fra 6-8 mesi magari ci fosse il mio papà, purtroppo non ci starà più. E io francamente ho bisogno adesso di questo aiuto, quindi cioè, sono rimasta, non uso altri aggettivi perché sono in diretta radiofonica, non voglio. Ma lei lo ha fatto presente all'altro? Ma Oscar, io a loro ho scritto, cioè io sono una che insomma è attiva, non sta ferma, sono una combattiva, ho scritto all'INPS, la quale non mi ha degnato assolutamente di una risposta. Ho chiesto a destra manca, mi hanno detto che questo è l'iter usuale, diciamo dal momento in cui viene confermato un accompagnamento a un paziente, un disabile, insomma qualsiasi sia la situazione, diciamo trascorre un lasso di tempo che va dai 6-8 mesi. Io ho scritto all'INPS per chiedere chiarimenti, cioè farmi spiegare il perché di questa lungaggine, perché io ho bisogno adesso, cioè non poi quando mio padre non ci sarà più, perché poi peraltro io come lavoratore autonomo, insomma, non posso prendere aspettative, non ho agevolazioni di alcun tipo, se non lavoro perdo tutto, ma non voglio neanche chiaramente trascurare mio padre, insomma voglio che abbia una qualità di vita decente fino alla fine. Quindi ho scritto a lei proprio per, non so, perché veramente sono rimasta basita a fronte di questo, perché già allora, mi pare Cosetta, molto... io posso semplicemente dire che sono io senza parole di fronte all'equilibrio, alla moderazione con cui sia la lettera sia nella espressione verbale diretta per radio Cosetta ha raccontato la storia. Perché questa storia deve far riflettere tutti? Perché ci sono tre aspetti di carattere generale in questa storia. Primo, nella concessione di una indennità che è dovuta a un motivo straordinario come quella per l'accompagnamento di chi è in stato terminale, per chi non ha mezzi adeguati, lo Stato non ha, e l'INPS per conto lo Stato non ha procedure che tengano conto dell'eccezionalità temporale di questa necessità, perché capite che adesso servono i soldi per pagare il sostegno all'anziano che sta morendo terminale di cancro. Lo Stato questo non ce l'ha. Uno. Due. Lo Stato non ha nel suo regolo di welfare ciò che consente a un lavoratore autonomo di avere un accesso diverso proprio perché è un autonomo rispetto a un lavoratore dipendente. Vi dicono tutti che abbiamo esteso le stesse regole a tutti nel mondo del lavoro, ma non è vero. Terzo, non abbiamo neanche un canale straordinario, per così dire, in cui si fa stato del fatto che il welfare A non è per tutti, B non ha procedure straordinarie, ma che comunque esamini casi come questo e dica te lo diamo. Ecco, questo è lo Stato che ci dice che noi dobbiamo compiere il nostro dovere, ma lui dov'è? Cosa fa? Se ne fotte! Grazie, scusami Cosetta, la voce l'ho alzata io, e un abbraccio per tuo padre. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.